14. Gnocchi. È una minestra da farsene onore, ma se non volete consumare appositamente per lei un petto di pollastra o di cappone, aspettate che vi capiti d'occasione. Cuocete nell'acqua, o meglio a vapore, grammi 200 di patate grosse e farinacee e passatele per istaccio. A queste unite il petto di pollo lesso tritato finissimo con la lunetta, grammi 40 di parmigiano grattato, 2 rossi d'uovo, sale quanto basta e odore di noce moscata. Mescolate e versate il composto sulla spianatoia sopra grammi 30 o 40, che tanti devono bastare, di farina per legarlo e poterlo tirare a bastoncini grossi quanto il dito mignolo. Tagliate questi a tocchetti e gettateli nel brodo bollente, ove una cottura di 5 o 6 minuti sarà sufficiente. Questa dose potrà bastare per 7 o 8 persone. Se il petto di pollo è grosso, 2 soli rossi non saranno sufficienti.